Radio 24. Libera la voglia di fare. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Oh, bonjour. Sto sempre meglio, Stai sempre meglio. Sì. Perché mi hai detto con quella faccia da sfottò? No, che sfottò. Mi fa piacere sapere che stai sempre meglio. Tra l'altro è una guarigione così pratica, così rapida. Ma che rapida, che è un mese che me la sto portando in giro. Due volte me la siamo attaccata. Prima io, poi l'ho preso tu, poi me l'hai riattaccata a me. Sono sempre meglio, cazzo, anche ora. Sì, vabbè, insomma. Allora, ragazzi, facciamo fare un pochino, facciamo lavorare un po' il dottor Vaira. Mi dica. Allora, parliamo di educazione del cane, anzi, in modo più specifico del padrone. Posso dire che quando tu vai a fare, i coaching a casa delle persone individuali. Individuali, in realtà tu stai addestrando gli esseri umani e non i cani? Beh, allora, a me piace molto dirla così. Sì, sì, si può dire in modo diciamo superficiale, va, una cosa così veloce da dire in due minuti si può dire anche così, in due secondi si può dire anche così. In realtà il cane è inserito in un sistema che è la famiglia, no? E quindi ci sono tutte delle dinamiche che se tu non vai a smuovere parlando, comunicando e cambiando anche le convinzioni e le abitudini delle persone che vivono con il cane, ovviamente non ci fai nulla. Sì. Anche perché tu vedi queste persone che sono una volta a settimana, una volta al mese, due volte a settimana, a seconda del percorso che devi fare, ma tu ci stai poco col cane, ci fai anche delle cose, ma chi ci vive 24 ore su 24 sono i membri della famiglia, quindi se non cambiano loro, se non acquisiscono le loro capacità, se non cambiano le loro convinzioni, non aumentano le loro conoscenze, se non sono motivate a fare le cose in un certo modo, ovviamente il cane non cambia. Qual è del tuo lavoro, mi è venuta così adesso questa domanda da giornalista seria, mi dica. No, veramente adesso mentre stavi parlando stavo pensando, chissà qual è del suo lavoro la cosa che ti gratifica di più, cioè qual è la cosa che ti apre proprio il cuore, che dove tu dici caspita sono contento. Guarda, è quando si realizza una connessione profonda con qualcuno. A volte succede con i cani, quasi sempre con i cani per mia fortuna, salvo in condizioni particolari, a volte tu ti devi osservare senza entrarci troppo in contatto, no? Altre volte succede con gli esseri umani, quindi quando durante i corsi parlo ai miei allievi, quando durante i coaching individuali parlo con la famiglia, con i proprietari, loro si aprono un po' e cominciano a pensare in modo diverso, c'è quel contatto profondo che sai che è trasformativo, cioè non è informativo, tu non stai soltanto dando delle informazioni, tu stai causando una vera e propria metamorfosi. Non a caso faccio vedere, ti ricordi ad Ascolta il tuo cane, che quella giornata che tengo aperta a tutti, il circo della farfalla, il cui tema è proprio la metamorfosi. Esatto. Allora, non c'è niente, diceva Carl Rogers, il fondatore della terapia centrata sulla persona, lui diceva l'empatia è probabilmente il fattore più importante nell'operare cambiamento e trasformazione. Io trovo la cosa che sia assolutamente corrispondente alla mia esperienza. Ecco, cari ascoltatori, da questa risposta, che peraltro Angelo non si aspettava la mia domanda, no, ma da questa risposta capite la differenza fra un addestratore, che è una parola orrenda, o comunque comportamentalista, che si studia una tabella di comportamenti, no? Se il cane si muove così allora fa così, se noi ci muoviamo così allora facciamo così. Questo vuol dire andare oltre. Adesso io non è che voglio spendere delle parole a favore di Angelo, perché fammi finire un attimo, non mi interrompere perché comando io. A proposito di chi comanda, esatto. Sapete che nella scorsa puntata abbiamo parlato del fatto che chi comanda pare stia meglio. Esatto. Chi sta meglio tra me e Rosita secondo voi? Sta da Dio Angelo Vaira, quindi devo un attimo prendere il coltello a parte. Io sono acciaccatissima, da un mese lui sta parecchio bene, molto rilassato, è molto home, è molto zen. Allora, so che può anche non piacere la parola addestramento, ma forse perché la si associa a delle pratiche cruente. Devo dire però che ci sono diversi addestratori che sono bravissimi e che riescono a realizzare proprio quel contatto empatico di cui parlavo certo. Prima. Diciamo che io mi sono studiato la ricetta perché si realizza, ad altre persone invece hanno il talento di entrarci così senza doverci pensare troppo. Io ho voluto prendere quella cosa lì per poterla trasmettere ad altri, cioè il mio lavoro è quello di insegnare ad altri a fare la stessa cosa. Però addestramento significa rendere destro, rendere abile. E allora, se io un cane l'ho educato, ho tirato fuori il suo potenziale, lo sto facendo vivere bene, è giusto anche che mi chieda quali sono le capacità che quel cane vorrebbe esercitare, che lo fanno sentire vivo. E sono un po' i bisogni di autorealizzazione di cui parlava, di realizzazione di cui parlava Abraham Maslow, no? nel suo motivazione in personalità. Cioè, tu per far vivere bene una persona intendo per persona anche cani, ne abbiamo parlato, certo, anche sì, che hanno personalità. Quindi Abraham Maslow dice: devi esercitare i tuoi talenti. Ecco, quindi l'addestratore bravo individua i talenti in quel cane e li porta ad eccellenza, quindi fa un ottimo lavoro. Quali sono gli addestratori che a me non piacciono? Ed è un'opinione personale, perdonatemi. Sono quelli che utilizzano violenza, quelli che strattonano il cane, quelli che obbligano e forzano il cane contro la sua volontà, o a volte utilizzando dei mezzucci a fare delle cose, quindi non gli fanno vivere un'esistenza degna di questo nome. Là dove c'è ovviamente coercizione in un modo o nell'altro, esattamente, comunque quando è tu sbagliato. Forzi, obblighi, esatto, il cane, oppure gli fai fare una vita in un box e lo tiri fuori soltanto perché devi fare addestramento e poi portarlo in gara. Quando il cane in gara non vince, tu lo cambi come se cambiassi le mutande. Ecco che qui è quel tipo di chissà addestratore. Chissà se poi con la gente lì le mutande le cambia. Le cambia, appunto, cambia più in fretta i cani le mutande, non lo so, però. Ecco, quel genere di addestratori a me non piace, mentre quando l'addestratore fa bene il suo lavoro, entra in contatto empatico col cane, lo fa vivere meglio di quanto quel cane sarebbe potuto vivere senza quel contatto con quella persona, ecco che lì sposa assolutamente la mia filosofia. Stessa cosa la si può dire per i comportamentalisti che fanno bene il loro lavoro. Ma poi pensiamo, per esempio, a che cosa ti causa un cane quando tu lo incontri. Ti allieta la giornata, ti strappa un sorriso. Ecco, immaginate se noi dovessimo rubare al cane questo talento. Davvero? Cioè, che cosa accadrebbe se io, quando stringo semplicemente la mano a qualcuno o gli rivolgo la parola perché sto comprando il pane, riesco a, con la mia presenza, non perché uso una tecnica particolare, però riesco ad allietare queste persone, la vita di queste persone in questo modo. Lascio dei segni e se lo faccio ripetutamente tiro fuori il meglio dalle persone. Da questo punto di vista bisogna quindi ricordarsi che per riuscire a fare questo bisogna innanzitutto essere leader emotivi. Sai che si parla sempre di, sì, capobranco, leadership, eccetera. Il leader non è quello che fa, che forza, che obbliga, certo, l'altro. Allora, sii leader emotivo, portati direttamente nelle emozioni che vorresti regalare agli altri. Questo possiamo fare con il nostro cane, che è una buona palestra la relazione col cane. Possiamo farlo anche con i vicini di casa, il panettiere, la cassiera e via dicendo. A dopo. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Mi sto mangiando i peli di Morfin. Sono andato a farmi un giro in questi giorni di vacanza attorno alle chiese che c'erano, uh-huh, attorno a casa mia, perché è un bellissimo posto, no? E mi sono chiesto, mi sono fatto una domanda, no? Perché lì era proibito ai cani di entrare, no? Ti ricordi quando ti ho chiesto: ma scusa, ma sotto casa tua, che tu vai sempre a San Simpliciano, a chiesa di San Simpliciano, i cani invece lì possono entrare. Quindi c'è questa cosa, sì, qui, sì, che ogni non si messa ci perché sono 5-6 cani seduti, c'è un 2 Jack Russell, c'è un pastore tedesco, un barboncino. Quindi penso che la cosa sia lasciata alla tolleranza della parrocchia, del parroco, del prete, eccetera eccetera. Alcuni sono assolutamente intransigenti, cioè qui dentro i cani non ci possono entrare, invece in alcune parti poche invece la presenza dei cani è ammessa. Come mai? Che poi, cioè, possono entrare i cani in chiesa, è giusto che entrino a messa piuttosto che no? Perché dal mio punto di vista non è sempre giusto, eh. Perché? È perché i cani a volte non ci stanno bene in chiesa. Vabbè, ma grazie, se non ci stanno bene non è giusto. Se un cane in un posto non sta bene non è giusto. Lascia che vada stare in quel, perché posto. Ho visto dei cani nei centri commerciali, dopo tutte queste battaglie dei centri commerciali che non lasciano entrare i cani, ho visto dei cani nei centri commerciali che non dovrebbero essere portati a fare la spesa. Lasciateli a casa. Ma quello è deficiente il padrone, scusami. Ho capito, appunto. Allora, per tu sai che io ho due cagnolini piccoli. Il chihuahua, per esempio, si stressa se sente applaudire, gli viene l'ansia, inizia a abbaiare perché gli dà fastidio il rumore. La barboncina non fa niente. È ovvio che io, se devo portarlo in un posto dove c'è gente, dove c'è una manifestazione o una cosa, lui lo lascia a casa e lei la porta, perché lei non è tocca. E non è tanto ovvio. No, esatto, dico, è ovvio, dovrebbe per me essere. Dovrebbe essere ovvio, esatto, ma io, qui non è il punto, qui tu stai parlando dal punto di vista di ogni del padrone cane, che dovrebbe, e del cane, il padrone dovrebbe sapere dove il cane sta bene e dove il cane sta a disagio. Fra l'altro dopo c'è pure una mail di un nostro ascoltatore che ci chiede una cosa legata a questo, ma in questo caso la mia domanda, la mia cosa è un'altra. La Chiesa dovrebbe accogliere tutti gli esseri viventi di questa terra, perché siamo tutti creati da Dio, siamo tutti in un creato che è stato creato da la questione è sottile, perché il fatto che tu non me li fai entrare in chiesa non significa che tu non dai loro valore, ma magari lì dentro vuoi un'atmosfera particolare, sì, no? Ma voglio così come difendo anche i preti che dicono: ma sì, ma fateli entrare, sì, no, ma lì vuoi un'atmosfera particolare. Ma se il cane è tranquillo, che non fa niente, come San Simpliciano, non ho mai sentito non solo abbaiare ma nemmeno starnutire un cane, mentre sento spesso i bambini in carrozzina delle famiglie, che la mia domanda è: ma se tu vai col neonato che piace piange, urla, tira, vuole tirare giù le candele. Una volta ha tirato giù tutto il coso delle candele. Come fai tu a seguire, per esempio, la predica? Vabbè, e lo chiediamo qual è il punto di vista della Chiesa al mio amico padre Mariano, che stimo tantissimo. Mariano, ma noi abbiamo fatto già ciao Mariano. Allora, ciao, io ho un bellissimo ricordo di te, perché l'anno scorso ti abbiamo intervistato a proposito del rapporto tra Chiesa e animali e mi hai stupito. Io devo dire che con padre Mariano speciali. Sì, è uno di quei parroci, preti, così, che uno veramente vorrebbe incontrare sulla propria strada. Sì, che ti fa venire voglia, e anche per chi non crede, chiato, ti fa capire qual è il significato la parola di Gesù Cristo, del Vangelo, dell'essere una persona cristiana, cosa che adesso, insomma, ce ne sono un po' pochi in giro, Mariano, lo so che a te non piacerà sentirla sta cosa. Ecco, appunto, parliamo di altro. Apro e chiudo una parentesi, io sono rimasta colpita da Mariano al matrimonio di mia cugina Alessandra, la prof cattiva di Amici, perché è stato il prete che ha sposato mia cugina e ha fatto una predica che a me, allora, numero uno, ci ha fatto morire dal ridere. Quella è la tua napoletanità, credo, no? Certo, contaci. E numero due, era un prete che ti portavi ti a casa qualcosa. Tempo, quando uscivi dalla messa, anche da un matrimonio, da una predica, portavi a casa qualcosa. Ma quindi questa cosa qui, cioè, qual è la posizione della Chiesa, di un prete, sul fatto di far stare o non far stare i cani alla messa? In chiesa? In chiesa? Ecco, allora, le cose stanno così. Non c'è nessun documento, nessuno, che vieti l'ingresso o la presenza di animali in chiesa. Ecco, punto. Non c'è. Questo mi piace molto. Nell'antica tradizione, in chiesa entravano anche gli animali. Tu pensa alle famose benedizioni che si facevano agli animali. Però tante volte, siccome gli animali erano molto più ingombranti, perché adesso fermiamo, ecco, agli animali di compagnia, ma anticamente si benedicevano i cavalli, le mucche, e, cioè, gli animali che erano parte della di famiglia, un'economia domestica. Sì, esatto. Ecco, quindi si faceva fuori, antistante. Però non c'è ad oggi nessun documento che ne vieti la presenza, anzi c'è un documento che afferma la necessità di far entrare i cani qualora siano cani guida per ciechi. C'è sicuramente un documento, c'è. Sì, beh, quello, quello dovrebbe esserci dappertutto, perché... Vabbè, però sappiamo che la Chiesa ufficialmente ha emanato, ma tanti anni fa, un documento che ne attesta il diritto all'ingresso e alla presenza. Vedi. La differenza fra ingresso e presenza, ok? Ma secondo te, perché ci sono dei preti che dicono assolutamente... Guarda, Angelo, l'hai detto tu prima, ci sono le sensibilità diverse... E poi comunque ci sono, come dire, dei sacerdoti. Io nella mia parrocchia ho scoperto che a messa c'erano dei cani, perché dopo tante volte me l'ha detto qualcuno. Ha detto: sai che c'è un cane in fondo alla chiesa con la padrona, com'è carino, si mette sotto la sedia, non dice mai nulla. Boh, non me ne ero accorto. Ecco, allora se un cane si comporta, tra virgolette, è sempre un animale, ma si comporta adeguatamente, giustamente, come diceva pure Rosita, se un cane, come dire, è stressato, ma se tu pensi che ci sono molti cristiani che non riescono a star fermi in chiesa, figurati un animale. Sì, infatti. No, ma quindi, lì ovviamente sta l'intelligenza, come quando devi prendere il taxi, no? Sì, sai, ci sono dei tassisti che non vogliono trasportarti se hai il cane. Io ho sempre i cani con me e mi dicono: Madonna, ma neanche mi sono accorto che ci sono i cani. Dice, lei non sa, l'altro giorno ho portato una signora, il cane ha fatto un... Cioè, è come portare diciamo un bambino educato o maleducato. Bravo. È uguale. Ma senti, Rosita, ma se tu c'hai un bambino e lo porti in chiesa ed è bambino, ma la liturgia a volte è complessa e talvolta anche un po' così, no? Certo. Ostica. Tu porti un bambino, magari lo vaccini già a non entrarci più da adulto. Esatto. È vero. Allora, se tu lo fai stare 5 minuti, 10 minuti, dici: guarda, qui la comprichiamo, diciamo un'Ave Maria e poi ce ne usciamo, andiamoci a prendere un gelato, prendiamoci una bella giornata di sole, lodi a Dio. Ma forse il ragazzo ha un ingresso, no, nella dimensione adulta. È vero, verissimo. Forse un po' più tranquillo e sereno. Quindi, per i cani, tornando agli animali, perché c'è qualcuno che porta anche il gattino, nella mia parrocchia c'era una signora che portava il suo gattino e mi diceva: Mariano, io non lo posso lasciare solo perché lui sta male. E dico: allora portatelo, se sta in borsa non dà fastidio, non dà fastidio a nessuno. Quindi, certo, per quanto mi riguarda c'è questo, come avete già detto voi, non c'è nulla di scritto, nessuno lo vieta, dipende un po' dalla comunità locale e dal parroco. parroco. E dal parroco. Ma tu stai notando un pochino di apertura su questa cosa? Sì, sì. Ah, okay. Sì, sì, sì, una diciamo che dovrebbe essere un po' come succede anche per gli esseri umani, cioè se io mi rendo conto che tu entri in chiesa, il tuo cane dà fastidio, io ti invito ad uscire, però non ci vuole un divieto a priori, così come le persone. Certo. Però come dicevate prima, tutto sta anche un po' sulle spalle dei proprietari, dai. Sì, assolutamente. Cioè, proprio per quello, capito? Io ti invito ad uscire, se tu proprietario non ti sei reso conto da solo, te lo dico io che devi uscire dalla chiesa. Cioè, guarda, non ti faccio uscire perché c'è un cane, ti faccio uscire perché il tuo cane dà fastidio. Sì, ma anche perché il tuo cane sta soffrendo, evidentemente. Sta soffrendo. Quindi se gli vuoi bene, se mi permetti il termine. Assolutamente. No? Dico, guarda, non sta bene qui, ma perché non te ne esci? Io vedo delle mamme che quando i ragazzini cominciano a mostrare segno di insofferenza, tentano di così, no, di tenerlo. Dopodiché, intelligentemente, escono fuori. Ecco, io invece le vedo quelle che non intelligentemente continuano a ostinarsi a star lì. I bambini corrono, li corrono dietro per i corridoi laterali, li portano alle candele, poi li tengono lontani, poi il bambino urla, no, stai zitto. E la domanda è: ma che ci stai a fare in chiesa? Che tu per stare dietro al bambino manco segui tu, per sentir, perché ti senti a posto che sei uscito di casa, sei entrato dentro e sei riuscito? No, vabbè, sì. Capisco quello che tu dici, magari hanno altre intenzioni, magari sperano che il bambino si calmi, non lo so, non te lo so dire, okay, però io apprezzo quando le mamme si accorgono che i loro figlioli hanno un momento di disagio, di fastidio, si scocciano, oh, sono ragazzini, rispettiamo anche proprio la crescita, che è sempre, come dire, un cammino in salita, quindi non dagli tutto subito, boom, gli piazzi una liturgia cattolica che ha una sua ricchezza ma anche una sua pesantezza per un bambino. Certo. Quindi se il tuo figliolo a un certo punto, tuo figlio, tuo nipote mostra un po' di così, una bella giornata lo distrae, ma portalo giù al parco che sarà contento di frequentare la parrocchia. Sì, entra in chiesa, si fa il segno della croce, fa così, esatto, e poi lo porta subito, esatto, fuori. Esatto. Ma la fede è una relazione, quindi ha dentro anche la dimensione gioiosa e anche la dimensione ludica. La fede certo è una punto relazione, è bello, eh? E in che modo, in che modo ludica? La dimensione ludica, come si realizza? Scusami. Gioco. Angelo, ma il gioco, diceva qualcuno, è il godimento dell'essere gratuito. Uh-huh. Cioè, quando io gioco, per il fatto che gioco, che mi diverto, che salto su mio papà, che salto su mia mamma, che giochiamo, qual è lo scopo? Nessuno, se non quello di giocare. E quindi è il modo migliore per godere la ma vita. Guarda, no, vabbè, allora aperta. Tu devi sapere che Angelo ha appena scritto un libro, che è credo che sia il primo libro, sull'importanza del gioco col tuo cane, che si intitola Un cuore felice. E dico proprio questo, cioè il gioco è bello in sé per sé, siccome viene spesso strumentalizzato, no, da educatori cinofili, proprietari che vogliono fare l'addestramento, cioè il gioco in funzione dell'ottenimento di qualcosa. E vabbè, tenetevelo, però la cosa più importante da recuperare è il piacere stesso del giocare, cioè il gioco ti aiuta a essere. Uno degli articoli ultimi di Bauman era sulla incapacità di giocare dell'uomo moderno, cioè l'uomo moderno da Homo Ludens ha perso la capacità di godere del gioco. No, ma dai. E questo è uno dei suoi ultimi, come dire, punti messi a fuoco. Cioè, l'uomo moderno, tra le tante cose buone e negative, ha questo di negativo. Non sa più giocare per il gioco, ma gioca sempre in funzione di, ecco, come diceva Angelo, gioco col mio cane per insegnargli qualcosa, per istruirlo. Vabbè, allora quella è una scuola, è una scuola sotto forma di gioco. Invece c'è un gioco che noi diremmo gratuito. Sì, ecco, sì. Perché un teologo tedesco dice che la preghiera è un gioco. Un nostro amico che accompagna le coppie dice l'amore di coppia, se perde la dimensione del gioco, della giocosità, dello stare insieme e giocarsi insieme, no? La presenza, il prendersi in giro giocosamente, se perdi questo, oh, tutto diventa un ferro da stiro. Bravo, sono pienamente d'accordo. Ma è favoloso, ma tu dovresti scrivere un libro. Non hai scritto libri, Maria? No, io leggo i libri degli altri. No, vabbè, ma meglio dirle che scriverle, perché poi a 50 anni devo ancora decidere cosa farò da grande. Quindi nel frattempo leggo le cose degli altri. Prima tu citavi Bauman, giusto? Sì, Bauman. Allora, sarà un caso, pure no, io oggi stesso ho letto un pezzo di Bauman e c'è un pezzettino in cui lui dice: non troveremo l'amore in un negozio, l'amore è una fabbrica che lavora senza sosta 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana. Capisci? Bello. Cioè non è una cosa che tu compri, cioè, ho trovato l'amore. No, l'amore lo fabbrichi tutti i giorni, 24 ore al giorno. Lo alimenti, lo nutri, lo devi assolutamente nutrire. Siccome insomma il messaggio, io credo il messaggio principale di Cristo è l'amore, allora ne ho approfittato per lanciare. Ma non è, Angelo, non è il messaggio principale, è l'unico. Tutto il resto è organizzazione nostra. Cioè noi ci siamo organizzati perché comunque la vita e anche l'amore va verso un certo ordine. Certo. No? Non è che se campa due cuori una capanna, perché poi due cuori vogliono una capanna. Assolutamente, cioè perché ci sia amore deve essere sostenuto da cose poi di organizzazione e poi pratica. No, ma non perché ci sia, perché dalla vita dell'amore nasce poi la vita relazionale, sociale e così via. Nel senso, se tu vuoi bene una persona e decidete di condividere i giorni, e poi ci mettiamo d'accordo, Angelo, vieni tu a vivere da me o vengo io a vivere da te? Certo. Quindi è già questo, è un primo accordo, ma è un accordo sulle ali dell'amore. Ah, fantastico, fantastico. Mariano, starei a parlare con te le ore, non è detto che non ti richiamiamo. Magari ti facciamo diventare l'angolo fisso con te. Guarda, adesso ci penso un po'. La rubrica fissa. Tanto ti do un abbraccio grande, ci sentiamo presto. Auguri, ragazzi. Grazie anche a te. Padre Mariano. Ciao. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour Julie. Bonjour. Aus l'antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino. Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. O vi aspetto, è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega? Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Adesso dunque, è arrivato il momento di parlare di una storia triste, purtroppo, però ne parliamo perché è interessante, perché può riguardare la vita di tutti quanti noi che viviamo con un cane e perché può anche aiutare a farla diventare una storia a lieto fine. Potete aiutarci. Allora, abbiamo in linea con noi Laura Colaianni. Ciao Laura. Ciao a tutti. Ciao Laura. Allora, Laura, io ho avuto una persona che mi ha parlato personalmente, no, di quello che ti è accaduto, poi ho visto un annuncio su Facebook. Vuoi riassumerci tu che cosa ti è capitato? Sì, purtroppo sabato 17 dicembre sono tornata a casa e io ho 7 cani. Uh-huh. Ho fatto entrare dei cani che erano con me, che sono venuti al lavoro con me, e non ho sentito il cane che di solito fa guardia a casa abbaiare. Al che mi sono insospettita e sono entrata subito in casa e l'ho chiamato abbaiare in giardino. Sono corsa al piano di sopra, ma era tutto chiuso. Allora sono ritornata in taverna, dove ho la porta finestra che dà direttamente sul giardino. L'ho vista aperta, lui è arrivato, al che ho capito che era successo qualcosa. Ho controllato i cani e ho visto che la mia Cherry non c'era più. L'ho cercata per tutta casa, l'ho chiamata, ho visto che erano entrati i ladri perché i cassetti erano tutti ribaltati, hanno rubato delle cose, però lei non c'era. Quindi sono entrati dei ladri in casa? Che cane era la Cherry intanto? Cherry è un chihuahua a pelo lungo, ha fatto 9 anni a gennaio. È piccolina perché pesa 1,5 kg, è proprio, piccola, sì. Di che colore è? È sul beige, ha il petto un pochino più chiaro e invece la schiena è più scura. Quindi quello che è successo in pratica è che Laura è tornata a casa, mentre lei non c'era a casa ci sono stati i ladri, e su 5 cani che tu hai in totale, contando anche Cherry, giusto? Capito io bene? Ne ho 7 contando 7. Anche Cherry. Ecco, di questi 7 cani ne mancava uno, che è Cherry, che è proprio Cherry, che poi è la più piccola, e mi sembra che Cherry anche dovesse prendere dei medicinali. Sì, lei l'anno scorso ha avuto un ictus. Oh madonna. Quindi si è ripresa fisicamente, però deve prendere le sue pastiglie mattina e sera. Insomma, È una storia drammatica, dicevo, il fatto che tu rientri a casa e meno male che gli altri ci sono, perché poi purtroppo questo è quello che noi volevamo dire anche a voi che ci ascoltate, fate attenzione perché è successo anche che i cani siano stati eliminati, no, dai ladri o rubati. Io mi ricordo dei miei degli amici di famiglia molto tempo fa avevano lasciato il cane in macchina, la macchina è stata rubata, anche il cane è stato rubato con la macchina, non l'hanno ritrovato. No, mai. Ma poi quest'estate sentivamo che purtroppo i chihuahua sono più facile preda perché essendo piccoli ovviamente non fanno paura a nessuno, sono più facili anche da portare via, da nascondere. Dimmi una cosa, in che zona stai tu per capire dove è successo? Io vivo a Camparada, è un paesino di Monte Brianza, della provincia di Monte Brianza. Ah, ok, quindi sei qua in Lombardia. Sì. Ma tu hai messo degli annunci? Io ho riempito di annunci, ho riempito tutto il paese, ho riempito Facebook, mi sono girata anche tutti i campi Rom, ho fatto di tutto. Ma di tutto. E oltretutto tu avrai fatto una denuncia ovviamente perché sono entrati i ladri. Certo, ho fatto denuncia ai carabinieri, denuncia all'ASL veterinaria, ho avvertito tutti i veterinari comunicando il microchip, anche se nel caso dovesse essere portata dal veterinario e il veterinario dovesse leggere il microchip risulta che è un cane rubato. Allora guarda, se magari possiamo mettere anche la foto sul sito di Radio 24 se tu ce la mandi. Sì, volentieri, così è più facile individuarla. Guarda, allora, se tu ce la mandi sulla nostra mail, chiedimi se sono felice, @radio24.it, la facciamo mettere proprio sulla puntata, su questa domenica dei podcast di questa domenica. Poi sì, la mettiamo anche sui nostri social, ci metti il nome, l'età, insomma, e cerchiamo qua. Di... Mi dispiace. E quindi niente, nessuna segnalazione per ora? Nessuno. Perché purtroppo ovviamente quando uno viene a rubare in casa tua non è che poi dice ah sì, guarda, ho rubato il resto, beh, ti restituisco il cane. La speranza diciamo che loro l'abbiano ceduto a qualcuno, l'abbiano lasciato da qualche parte. O che il cane sia scappato anche. Noi offriamo anche 1.000 euro di ricompensa nel caso qualcuno avesse buon cuore di farcela tornare a casa. Sì. Quindi insomma vi facciamo questo appello a chiunque ci stia ascoltando, anche se non è magari la persona direttamente interessata, ma insomma contagiate i vostri amici, diffondete questa notizia, se qualcuno dovesse sapere o aiutarci a riportare Cherry, che è questa chihuahua fulva a casa, Laura ha messo anche a disposizione una ricompensa di 1.000 euro. Grazie Laura e auguri, grazie. Speriamo di trovarla presto. Speriamo, grazie mille. Un abbraccio. Figurati. Grazie. Ciao Laura. Ciao. Ecco, capisci com'è tragica? No, io non... Ti ricordi quando hanno rubato a casa tua 2 anni fa? Allora, che brava, tu hai detto la prima cosa che hai detto, hai detto: Madonna, meno male non c'era Jean-Pierre in casa, non io potrei morire. Io mi ricordo avevo fatto riunione tutto il giorno, ho accompagnato un amico in aeroporto, siccome quell'aeroporto è vicino ad un parco molto bello, perché è il Parco del Serio, e avevo portato con me Jean-Pierre, siamo stati 3 ore fuori, sono ritornato, c'era questa atmosfera surreale, anche perché mi ricordo che era la finale, semifinale, insomma, dei mondiali di calcio. Quindi sì, primavera, quindi era chiaro fino a tardi. Era chiaro fino a tardi, mi ricordo che c'era questa atmosfera surreale, arrivato a casa, c'era la casa dei miei vicini che aveva l'allarme che suonava, però succedeva spesso, però per me c'era qualcosa che non andava, non sapevo cosa, ho parcheggiato la macchina dentro il garage, ho lasciato la basculante aperta e il cancello aperto, perché per me dovevo rimettermi in macchina, uscire se ne avessi avuto la necessità. Jean-Pierre l'ho lasciato in macchina, io ho preso dal mio garage un'accetta di quelle per fare la legna e sono salito con quella in mano, che poi a distanza di tempo mi dico: ma io avrei avuto il coraggio di accettare qualcuno, di scagliarla addosso a qualcuno? Un bastone sì. Se avessi avuto un bastone, avessi incontrato qualcuno, gliel'avrei. Però insomma sono salito, ho fatto le scale, mi ricordo, visto che il televisore non c'era, la porta finestra era stata sfondata, sono ritornato giù, mi sono rimesso in macchina come avevo pensato, sono uscito, ho chiamato i carabinieri, i ladri in casa non c'erano più. Però mi sono detto: meno male che non c'era Jean-Pierre. Quello è stato l'impulso che mi ha fatto cambiare casa, mi ha fatto andare in una casa migliore. Io purtroppo capisco qual è lo stato d'animo di non trovare più un cane, perché mi è capitato tanti anni fa ed è una sensazione orrenda. Io personalmente posso dire che forse è peggio di quando ti viene a mancare un cane, perché non sapere dov'è, nelle mani di chi sta, di come lo trattano, chissà che cosa ci fanno, chissà come sta lui, è una cosa devastante. Quindi io mi auguro veramente che si trovi in fretta, veramente le persone che hanno preso Cherry abbiano un minimo di cuore di, non dico di riportarlo, ma di fare in modo che torni a casa, perché... Sì, state attenti a quando lasciate i cani in casa, perché poi la sensazione che ho avuto io è, vabbè, hanno rubato il computer, hanno rubato delle cose, no? Mi sono detto, ok, cioè se fosse stato che io non avessi più trovato Jean-Pierre sarei stato disperato, no? Quindi dal momento che so che ci ascoltate in tanti, che molti di voi hanno lo stesso nostro rapporto con gli animali, fate qualcosa per le vostre case o dal sistema d'allarme, piuttosto che le inferriate, fate bene, non lasciate i cani in macchina, perché effettivamente, insomma, sento che è un consiglio buono, sento di potervelo dare davvero... come si dice, sensatamente. Boh, benissimo. Senti, allora, noi avevamo un sacco di cose di cui parlare. Adesso non so quanto tempo ci è rimasto, Peter. Ci abbiamo... Due minuti e mezzo. Ha fatto tre, però. Questo è tre. Ah, quello è 30 secondi e uno. Cioè, pensa, un anno che... Come siamo connessi. Allora, darò una notizia. Il fumo passivo. Gli animali sono a forte rischio. Ora, qualcuno ci potrà prendere in giro, però è successo che in una ricerca condotta nella clinica veterinaria di Tufts University negli Stati Uniti, gli esperti hanno visto che il cosiddetto fumo passivo crea problemi al gatto e al cane più di quanto non accada agli altri membri della famiglia. Pensa, addirittura. Pensa. Molto di più di quello che il fumo passivo fa a noi. Perché si riferisce al fatto che non è solo un problema legato all'inalazione nociva del fumo della gente che gli fuma intorno, ma anche al comportamento tipico di gatti e cani che leccano vestiti o tessuti dove la nicotina si impregna e non se ne va più. È questo il motivo? Questo è un aggravante, perché noi respiriamo il fumo passivo ma non andiamo a leccarci, ad annusare i vestiti degli altri. I cani e i gatti lo fanno. Dice che non è stato possibile stimare i casi di eccessi di animali inerenti al fumo passivo, però gli scienziati hanno verificato che molte patologie sono direttamente collegate a questo fenomeno, prima fra tutti le allergie, poi problemi respiratori, tumori dell'apparato broncopolmonare o del sistema linfatico. Le statistiche dicono che l'esposizione al fumo aumenta il rischio di ammalarsi di una forma neoplastica, quindi di tumore. Dopo 5 anni di convivenza con un fumatore, il pericolo quadruplica. Cani e gatti possono inoltre cibarsi di resti di sigarette contenuti in un'enorme quantità di sostanze tossiche. Insomma, il tumore nasale è più evidente negli animali caratterizzati da un naso di grosse dimensioni. Il muco, infatti, è in grado di intrappolare grandi quantità di particelle pericolose che a lungo andare possono impattare sulla genetica delle cellule dell'organo olfattivo. Insomma, ragazzi, cioè, fumare non solo fa male a chi fuma. Questa novità, nel senso che l'avevamo immaginato, ne avevamo parlato, no? Fa male anche agli animali, ma sapere che fa male maggiormente a loro, tra l'altro quando in questa ricerca si dice che cani e gatti possono anche cibarsi dei resti di sigarette oppure ingurgitarli per caso, non è una possibilità soltanto, perché in qualche caso è davvero accaduto, è per questo che e viene con questo riportato. Poi dopo chiudiamo un attimo il blocco. I test sono stati condotti anche su pesci domestici. La nicotina si scioglie facilmente nell'acqua e dopo un certo periodo di esposizione l'animale perde il suo colore per poi morire intossicato. Ma pensa te, cioè mi state guardando, perché mi guardano Rosita e Peter, io guardavo loro, mi guardavo per dire chiudiamo questa, e se ascoltiamo il traffico ci sentiamo tra poco. Chiedimi se sono felice, il mondo dalla prospettiva animale. Beh, adesso voglio darvi una notizia fantastica. Chi sono? Rosalia, Giulietta e Ciuffo Bianco? Chi sono? Allora, chi sono? No, aspetta, chi sono lo dici poi tu. Però voglio parlarvi di Porci Comodi, scritto con la K. È il paradiso dove gli animali da reddito vivono felici. Cioè, ma tu pensa anche questa parola qua, animali da reddito. Sì, cioè, come se tu dicessi ci sono esseri umani da reddito, esseri umani da segreteria, sì, esseri esatto. umani da corsa, esseri umani... Capisci? Gli animali da reddito purtroppo sono quelli che vengono allevati per la carne, il latte, la sono lana, la pelle. Sono sfruttati fino alla morte per poi poter essere dalla rimpiazzati. Dalla nascita, presi, messi al mondo, fatti nascere solamente per questo e sfruttati vergognosamente per questo. Però c'è stata una persona qui vicino a Magnago, in provincia di Milano, che ha avuto l'idea geniale di salvare tutti questi animali dai macelli o sequestrati, che consente appunto loro di avere una seconda vita fantastica in un paradiso che lei ha chiamato Porci Comodi. Questo paradiso si chiama Porci Comodi. Il progetto nasce già all'interno di Vita da Cani, che è un'associazione che si occupa da anni, da molti anni, dei cani e dei canili, e si sono detti perché soltanto i cani, non sono gli unici, no, ad, certo, ad avere bisogni. Allora, una delle cose che mi è piaciuta di più di questo progetto è che mostrano come sono realmente quegli animali che di solito vengono soltanto considerati cibo e dalla maggior parte della gente non senzienti. Quindi la rivoluzione vegana, voglio ricordare, nasce dall'etica, certo, non soltanto dalla salute. Cioè io non sto soltanto meglio secondo diverse ricerche se riduco il consumo di carne eccetera eccetera, ma c'è anche un motivo ecologico, cioè salvo il pianeta, e oggi sappiamo che i dati sono veramente devastanti, ne ha parlato anche Crozza, no? Certo. Dice che i vegani hanno ragione da questo punto di vista. Ma ha fatto tutto un documentario fantastico Leonardo DiCaprio, che è andato a parlare, a fare il discorso all'ONU, ha incontrato Papa Francesco, ha incontrato Obama. E lì parlava del riscaldamento globale, però, attenzione. Sì, beh, comunque, una delle cause del riscaldamento, però, anzi la principale causa del riscaldamento globale, ricordiamo, è l'allevamento dei bovini. Esatto. Allora, l'altra cosa però, la terza motivazione di chi passa ad un'alimentazione vegana è il come si sente l'animale, la felicità dell'animale o la sofferenza degli animali. Ecco, quindi quando noi consideriamo questi animali soltanto animali da reddito, pensando che non sentano, che non provino, esatto, emozioni, o che li stiano bene, che negli allevamenti grossi tutto sommato, conto, vabbè, invece, certo, fate una vita che non devono, qui posso andare a vedere come sono realmente questi animali. E però noi vogliamo assolutamente, nella prossima puntata cercheremo Sara D'Angelo, che è la presidente appunto di Vita da Cani Onlus, e vogliamo proprio approfondire con lei quest'idea com'è di questo cosa? Paradiso Porci Comodi, perché non è detto che magari... E magari li andiamo pure a trovare. Li andiamo a trovare e magari ci andiamo a vivere pure noi. Se ci dà l'ok. Ci diamo appuntamento con tutti gli ascoltatori. E comunque, guarda, intanto li voglio ringraziare, un applauso veramente dal cuore, perché anche l'idea di chiamarlo Porci Comodi la trovo fantastica. Sì, davvero una cosa un riscatto di una vita così. Brava Sara D'Angelo, bravi! Porci Comodi, tutti quelli che hanno avuto l'idea, che ci stanno lavorando e tutto quanto. Noi per questa domenica dobbiamo chiudere, però... No, prima di chiudere dobbiamo parlare di cibo. Alimentazione con Mara Di Noia. Piatti e ciotole. Ed ecco con noi Mara Di Noia. Ciao Mara. Ciao Mara, tutti. Questa sigletta a me proprio mi mette appetito già. Subito, sì, ormai è mi rallegra. È ormai un ancoraggio. Un ancoraggio. È un ancoraggio, vero, vero. Allora, che ci hai cucinato? Che ci suggerisci di cucinare per oggi? Allora, vi così consiglio una ricetta sempre con pochi ingredienti, con molto semplice, e vi occorrono 300 grammi di miglio, un mazzetto di cavolo nero crudo, una manciata di mandorle, un pizzico di sale e un cucchiaio di olio. Cosa dobbiamo fare? Lavare il miglio in un colino a maglia fine e metterlo in una pentola. Aggiungere l'acqua in proporzione di 3 volumi di acqua per ogni volume di cereale, quindi 900 grammi millilitri di acqua. Coprite e cuocere a fuoco basso per circa 20 minuti. Mm-hmm. Nel frattempo pulire il cavolo nero privandolo della costa centrale, che è molto dura, tritarlo con le mandorle, un pizzico di sale e l'olio, e con questo trito condire il miglio. È una ricetta molto nutriente, perché il miglio ha moltissime proprietà. Per quanto riguarda il piatto umano lo possiamo servire così. Per quanto riguarda la ciotola o l'inciottolamento, come ha detto Angelo, che mi piace tantissimo come termine, l'inciottolamento, possiamo aggiungere del lievito alimentare in scaglie, che darà un aroma particolare a questo piatto, che piace tantissimo ai cani e anche tanto ai gatti. Buono. Perché fa di formaggio. Ah, wow, e allora a me piace di meno. Possiamo usarlo anche noi, volendo, se abbiamo... Ma a me il formaggio non piace, quindi allora tutto ciò che sa di formaggio a me allontana. Si allontana. E è un piatto molto ricco, come ti dicevo. Piatto ricco, mi ci ficco. Caratteristiche nutrizionali proprio elevate. Il cavolo nero, come tutti gli appartenenti alla famiglia dei cavoli, è molto ricco di proteine, essendo una verdura rigida. E il miglio farà bene a noi donne per quanto riguarda unghie e capelli, e ai nostri animali per il loro pelo. Quindi è un cibo non adatto soltanto ai canarini, come si diceva una volta, ma a tutti gli esseri viventi. Ah, fantastico. Adesso io non ti posso dire cosa mi è venuto in mente col canarino e il miglio, perché io ho raccontato a Angelo una barzelletta. Dopo 3 mesi ci eravamo conosciuti, però Mara, devo oggettivamente dire che è un po' troppo. No, non si può dire in radio. Non puoi dire in radio, però io sono scoppiato a ridere per giorni. So solo che lui stavamo guidando, tornando da... eravamo andati in macchina con i cani a Parigi a fare una fughetta d'amore, stavamo assieme da 2 mesi forse. E ha iniziato a ridere così tanto che io ho detto: ma non è possibile, cioè non pensavo una reazione così. Gli ingredienti di questa barzelletta erano il miglio e l'uccellino. Te la racconterò. Ma comunque, per non tergiversare, a me il miglio poi piace tantissimo. Sì, è molto buono. Poi con il miglio avanzato possiamo fare le solite crocchette o polpette, si presta molto bene. A cosa fa bene in modo specifico il miglio? Allora, il miglio appunto è specifico per capelli, unghie e annessi cutanei. Ah, e quindi fa molto bene alla pelle, sia per quanto riguarda gli esseri umani che per quanto riguarda i nostri animali. Quindi possiamo utilizzarlo molto a questo scopo. Si può fare anche un decotto di miglio, lasciando il miglio a bagno in acqua dalla sera precedente. Se abbiamo problemi di perdita di capelli o unghie fragili, possiamo bere quest'acqua la mattina dopo. Quindi bere l'acqua dove abbiamo ammollato il miglio. Ma cosa ci sarebbe? Vitamina D? Cos'è che fa? Il miglio contiene minerali, sali minerali, tra cui il silicio, che vanno a costituire, diciamo, la matrice degli annessi cutanei. E quindi c'è molto utile per la bellezza. Quanto è bello sentire tutta questa scienza dietro i piatti, vero? Io metto un po' di miglio in un bicchiere d'acqua da bere. La notte, il mattino dopo, bevo quell'acqua? Sì. Senza mangiarmi il miglio? Il miglio poi te lo cucini tranquillamente. Perché a me il miglio piace mangiarmelo anche così col cucchiaino, me lo sgranocchio, tipo... Crudo lo mangi? Sì. Ma crudo? Com'è? Quello che ma cosa dici? Ma qual è il miglio che mangiamo noi, scusa? No, quelli sono insieme di semi di sesamo, girasole, eccetera, rimbambita. Eccetera. Il miglio sono quelle palline piccole. Il miglio è molto duro da mangiare. Ah, crudo. No, mi confondevo con i semi di sesamo. Apriti sesamo. I semi di sesamo sono ricchissimi di calcio. Ah, no, i semi di sesamo. Fai bene a mangiarli così. Ah, il miglio non ce l'ha proprio presente. Ah, ho capito, ora niente. Non ce l'ha presente, significa che non lo cucina mai. Ai. Ce l'ho presente adesso, sì, ma non lo cucino mai con me. Ormai mi sono rassegnato, devo cucinare io a casa, perché sennò siamo fritti. Sì, l'allero, mo è arrivata. Donna Concetta, ma non gli dà retta, mamma Mara. Catena la piccola Mara di noia che c'è in te. Esattamente. Ma guarda, Mara, un giorno, Mara, vieni a fare una settimana con noi di nascosto, così vedi le dinamiche di famiglia, no? Aiuto, c'è già le mie. Che bastano e avanzano. Esatto. Va bene, allora cani più felici, gatti più felici, bambini più felici, mariti più felici con i metodi... Pirla. E le mogli pure, perché con questo amore per la cucina loro cucinano. Sei veramente un medio man. Adesso passerò per il maschilista di turno. Vabbè. Comunque, va bene, allora, buona domenica a tutti. Grazie. Buon appetito. Grazie. Mara di noi. Ci vediamo domenica prossima. Un abbraccio. Ciao. Chiedimi se sono felice. @radio24.it in compagnia di Angelo Vaira e Rosetta Centano. Se volete insultare Vaira, fatelo via mail. Grazie. Ciao.